Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente ci occuperemo anche del Consiglio dei Ministri che è previsto per le 18 e poi questa sera vi sarà invece la riunione dei capigruppo del PD, sullo sfondo ovviamente il tema del Presidente della Repubblica, ma è chiaro che oggi ci sono anche dichiarazioni, penso a quelle del Presidente Confindustria Squinzi, che dice: attenzione, siamo preoccupati per la mancanza di coperture nella legge di stabilità, nel decreto, o meglio, le proposte iniziali contenute nel decreto Sblocca Italia non hanno trovato le coperture nella legge di stabilità. Quindi mancano i soldi che dovevano arrivare dalla legge di stabilità e quindi stiamo manifestando al governo le preoccupazioni per una scelta che non comprendiamo e stiamo insistendo affinché vengano trovate soluzioni al più presto. Per esempio c'era uno stanziamento per quello che riguarda 130 milioni nel 2015, 50 nel 2016 e 40 per il 2017, che già era definito negativo. Sempre sul fronte italiano, oggi la produzione industriale va male a settembre, la Confindustria fa sapere che il dato di ottobre sarà comunque migliore, però il dato è negativo di un meno 2,9% nella produzione industriale rispetto all'anno prima e in calo anche su base mensile, meno 0,9%. Purtroppo le variazioni negative nella nostra produzione industriale riguardano tutti i comparti, dai beni di consumo meno 3,2%, ai beni strumentali meno 2,4, energia meno 1,5, i beni intermedi meno 0,8%. La meccanica ancora in calo quest'anno, ma più 0,7 nel 2015. La Confindustria stima una produzione industriale per l'anno per il mese di ottobre che si è appena chiuso dello 0,4% in aumento. Però insomma, è una stima. Detto questo, oggi è arrivata anche Moody's, una delle agenzie di rating che danno i voti ai governi e ai privati, dicendo che la crescita dell'Italia l'anno prossimo potrebbe oscillare tra lo 0,5, tra meno 0,5 e più 0,5. Ora, questo emerge dal rapporto Global Macro Outlook di Moody's, stessa prospettiva per l'anno in corso. Ora, tra meno 0,5 e più 0,5 io capisco che sia anche corretto se uno non ha una stima affidabile, però è capace anche mio figlio, nel senso che tra meno 0,5 e più 0,5 c'è la differenza tra un altro anno di recessione chiara, meno 0,5, o il primo anno di una leggera ripresa economica, più 0,5%. La Banca d'Italia fa sapere che rallenta il calo dei prestiti delle banche, quindi continua ad esserci un calo nei prestiti delle banche, ma è minore il calo, meno 2,3%, e frenerebbe anche la crescita delle sofferenze. Questo per quello che riguarda i temi soprattutto della seconda ora. In apertura ci occuperemo di una notizia che ha scovato il Sole 24 Ore, già l'avevamo anticipata nel venerdì scorso, e mi riferisco a un effetto del tutto regolare e, se vogliamo, anche prevedibile, però nessuno se n'era accorto, della riforma Dini sulle pensioni. Ossia, per la prima volta da quando è stata varata la Dini, dal 1995, subiranno una rivalutazione negativa, vengono moltiplicate, diciamo, per un meno 0,19%, quindi andranno sostanzialmente ad assottigliarsi. Chi aveva 10.000 euro accantonati ne avrà 9.980, cioè la somma fino adesso versata nelle casse dell'INPS verrà moltiplicata per 0,998. Perché questo? Perché il PIL è negativo. Stiamo parlando della rivalutazione nominale, quella reale, cioè tenuta conto dell'inflazione, è negativa già dal 2011. domani se ne occuperà in maniera più approfondita anche Cuore Denari, ma torneremo sul tema in apertura. Poi il viaggio che Radio 24 sta dedicando in tutta questa settimana nei GR e nei programmi a Genova, un mese dopo, è ovvio che con quello che vediamo di Genova si può parlare anche di attualità, ma cerchiamo di fare il punto su quello che è successo a un mese dall'alluvione. L'abbiamo fatto nei casi di Vicenza, nei casi del terremoto in Emilia e purtroppo ci tocca farlo anche questa volta. Oggi ci occuperemo a Focus Economia dei danni soprattutto al mondo delle imprese, commercianti, artigiani, imprese, 200 milioni di danni, di cui 100 milioni a carico di imprese e commercianti privati. Sono tra l'altro fermi per intoppi burocratici 35 milioni di euro stanziati, pensate, dopo le alluvioni del 2011, che sarebbero dovuti servire per le opere messe in sicurezza. La borsa nel frattempo più 0,60% dal punto di vista Milano, più 0,60%. Parigi più 0,60, Francoforte più 0,40, Londra più 0,50, l'America più 0,12, UX più 4,21, Mediaset più 3,90, Ferragamo più 3,40, Enel più 2,20 come A2A, Buzzi più 2,1, Luxottica più 1,60, Atlantia più 1,5 come Unicredit l'1,30, Enel Green Power l'1,20, Intesa San Paolo l'1%, Fiat Chrysler e anche Terna e Snam. Fronte opposto invece Azimut, che perde il 5,60%, il Banco Popolare perde il 2,80%, Pop Emilia Romagna meno 2,60%, Ubibanca meno 2,30%, come la Pop Milano l'1,30%, lo Cite Tenaris e lo 0,90% Telecom Italia. Euro a quota 1,24,41, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente, come sempre, le notizie in breve. Anche della Russia, lo dico subito, perché? Perché oggi la Banca Centrale Russa ha annunciato che limiterà temporaneamente la liquidità del rublo per frenare la domanda di valuta straniera. È una decisione abbastanza forte, per essere quasi eufemistici. Tra l'altro, poco prima il leader del Cremlino, Putin, aveva definito speculative le azioni che stanno indebolendo il rublo. Lo ricordavamo, nelle ultime settimane ha toccato e aggiornato nuovi minimi da record nei confronti sia dell'euro che del dollaro. La fuga netta di capitali dalla Russia, nel frattempo si è venuto a sapere, nel 2014 ammonterà a 128 miliardi di dollari come conseguenza anche della crisi ucraina, è il doppio esatto del 2013. La nuova stima della Banca Centrale Russa precedentemente prevedeva 90 miliardi, nel 2013 uscirono dalla Russia 60 miliardi di dollari, quest'anno 128 stando all'ultima stima. E la Russia stima, sempre per fonte della sua banca centrale, una crescita pari a zero nel 2015 come effetto delle sanzioni. Senza la stretta sui tassi di interesse, continua la banca centrale russa, il crollo del rublo sarebbe stato di un 10% superiore. Veniamo all'Italia, dicevamo di Moody's e della produzione industriale, anche della Banca d'Italia. Per quello che riguarda invece la vicenda di Termini Imerese, Griffa produrrà City Car e la componentistica proverà dalle stesse aziende che forniscono alla Fiat i pezzi per la nuova Panda. Lo ha reso noto la FIOM al termine dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico con l'azienda Invitalia, ma anche il sottosegretario Claudio De Vincenti e i rappresentanti del governo regionale sul futuro dello stabilimento siciliano, che è chiuso dal 2011. La vicenda invece AST Terni, visto che sono stati pagati l'8 novembre, anzi sono state completate le operazioni di definizione e corresponsione degli stipendi del mese di ottobre e l'8 novembre. Ricorderete che l'altro ieri il sottosegretario Delrio ha detto Terni è un passo dalla soluzione, però oggi non sono arrivate ancora nuove notizie. Adesso arriviamo a parlare di pensioni, due piccole note le vorrei fare su alcune vicende. Sapete che la nostra rubrica quasi un appuntamento fisso, riguardano il mitico pubblico registro automobilistico, la linea C del metro di Roma e anche il fine indagine dei consiglieri dell'Emilia Romagna. Sarebbero coinvolti praticamente tutti i gruppi parlamentari, tutti i gruppi consigliari, scusatemi. Era capitati 41 avvisi a fine dell'inchiesta sull'uso improprio per oltre 2 milioni di euro, quindi note spese impropriamente addebitate per oltre 2 milioni di euro. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, raccontiamo queste vicende così, non dico in alcuni casi poco edificanti, in altri così che lasciano frustrazione, e poi passiamo alle pensioni degli italiani. Grazie al nostro Enrico Pagliarini per l'aggiornamento, quanto mai importante. Sono due notizie, come avete già intuito, che faranno molto discutere, due sentenze che faranno molto discutere. Noi andiamo avanti invece con altre notizie che fanno discutere. Allora, il mitico pubblico registro automobilistico, il PRA. Speravamo, avevamo fatto una campagna, si era presa con noi, mi aveva scritto anche delle lettere, delle mail, l'ACI, insomma. Dalla legge di stabilità è sparito l'articolo che eliminava il PRA, quello gestito dall'ACI, quindi gli italiani continueranno a pagare una sorta di tassa occulta, poca roba direte, ho capito, sono 200 milioni di euro l'anno che garantiscono all'ACI 2/3 delle sue entrate. È un emblema, io lo dico col massimo rispetto per l'ACI, ogni paese europeo e penso anche al mondo ha il suo club automobilistico, qui non stiamo contestando l'ACI, stiamo contestando il fatto che attraverso il PRA l'ACI abbia 2/3 delle sue entrate. Perché lo contestiamo? Il PRA rilascia il certificato di proprietà di un'auto, mentre il libretto di circolazione è competenza della motorizzazione civile. Ora voi, io sfido chiunque a spiegarmi perché l'ACI mi deve dare il PRA e la motorizzazione mi deve dare il libretto, visto che poi quando ti fermano ti chiedono il libretto in primo luogo, no? L'auto di chi è? Il suo, prego. Allora, è uno sdoppiamento inutile, senza senso, se non per la duplicazione dei costi. L'ACI impiega nei suoi 106 uffici provinciali 3.000 persone e, voglio dire, ci sono stati tanti, ci sono tante nomine all'ACI, ci sono 70 dirigenti, tra 264.000 euro lo stipendio del presidente, furono celebre le nomine ai vertici dell'ACI milanese, il figlio di Ignazio La Russa, il fidanzato di Michela Brambilla, anche Bruno Ermolli, che è un consulente importante, anche vicino a Berlusconi. Ma non è questo il punto, là ci può nominare chi vuole. Vorrei capire perché esiste ancora il PRA fatto, e quindi il pubblico registro automobilistico, e non può essere accorpato nella motorizzazione civile come vorrebbe qualunque buon senso. Poi là ci faccia tutte le nomine che vuole, tutte le campagne che vuole, non siamo contro l'ACI. Spostiamoci a Roma. A Roma c'è, mi ha scritto un ascoltatore giustamente, dopo 20 anni ecco la linea C a Roma ed ecco il primo guasto, visto quando si fanno le cose di fretta. Ecco, sì, mettiamola così, perché ci ha messo 20 anni, non è un bel periodo per il sindaco Marino, posteggi, permessi per entrare, insomma, dai. Risposte così, vabbè, non è compito di questo programma. Però avete letto sui giornali, ieri inaugurava con 14 anni di ritardo la linea C della metropolitana di Roma. Pensate che sarebbe dovuta entrare in funzione per il giubileo del 2000. Abbiamo avuto due papi nel frattempo. Dopo 4 fermate, il primo intoppo, vabbè, il convoglio inaugurale è rimasto bloccato per 11 minuti a causa della mancata apertura delle porte, vabbè, un dettaglio. I treni non hanno conducente e sono controllati da una postazione remota. La metropolitana C non solo ci ha messo quasi 20 anni a essere pronta, ma è un'opera costosa, sono 160, anzi c'è chi dice costosissima, 160 milioni di euro a chilometro, 4 miliardi per il percorso di 25 chilometri. C'è anche un'inchiesta della Corte dei Conti che ipotizza un danno erariale per 364 milioni di euro e c'è anche un'inchiesta della magistratura ordinaria. Nessuno mette in dubbio, ed a tutti è riconosciuta l'utilità dell'opera, però l'ATAC nel frattempo, ATAC come Trasporti Metropolitani di Roma, non ha certo una situazione finanziaria felice. Pensate che alcuni giorni fa uno dei maggiori fornitori di carburante, alcuni dei maggiori fornitori di carburante della società di trasporti romana avevano minacciato di interrompere l'approvvigionamento a causa dei mancati pagamenti dovuti al blocco dei conti correnti ATAC per 77 milioni di euro. E poi ricordo la mitica inchiesta della del Sole 24 Ore che va calcolato come in questi anni l'ATAC è costata ai contribuenti più di Alitalia. Chiudiamo con l'Emilia Romagna. Allora, recapitati 41 avvisi di fine indagine nell'inchiesta di Bologna sulle spese dei consiglieri regionali dell'Emilia Romagna. Coinvolti tutti i gruppi. Gli avvisi sono partiti a pochi giorni dalle elezioni regionali, che sono il prossimo 23 novembre in Emilia. I primi notificati relativi ai capigruppo rispondono a quanto si apprende di peculato sia per le spese in proprio che per omesso controllo dei rimborsi dei consiglieri del loro gruppo. Sei capogruppo, non solo vieni accusato tu per le tue spese, ma anche per l'omesso controllo dei tuoi consiglieri di cui tu eri il capo. La Procura di Bologna contesta spese per un valore di 2 milioni di euro dal giugno del 2010 al dicembre del 2011, quindi diciamo un anno e mezzo, 2 milioni di euro. Il gruppo che vede coinvolti più consiglieri è il PD, 18 consiglieri hanno ricevuto la notifica, con 940.000 euro di spese contestate. Segue l'Italia dei Valori, 2 consiglieri, con 423.000 euro. Il PDL, 11 consiglieri con 205.000 euro contestati. E invece 2 consiglieri del Movimento 5 Stelle vengono contestate, c'è Giovanni Favia prima della sua uscita dal gruppo e tra i due, spese per 98.000 euro. Allora, passiamo alle nostre pensioni e ringrazio Vitaliano D'Angelio del Sole 24 Ore. Buonasera Vitaliano. Ciao, buonasera a te. Dopo il meteo le facciamo, nel senso che, ripeto, qui non è successo nulla di nuovo, non c'è una norma, non c'è da dire governo ladro, no, è tutto già previsto nella legge Dini. Purtroppo, penso nemmeno Dini quando la scrisse, poteva immaginare anni di recessione così lunghi e quindi un effetto sulla pensione nominale negativo, oltre che su quella reale, visto che dal punto di vista dell'inflazione siamo già in negativo. Ci racconti tutto, perché ci vuole un po' di spiegazione dopo il meteo. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Vitaliano D'Angelio, che cosa è successo passo per passo dalla legge Dini in poi? Ecco, allora, innanzitutto ogni anno Istat deve calcolare questo coefficiente, detto anche tasso annuo di capitalizzazione, per la rivalutazione dei montanti contributivi. Il montante contributivo non è altro che il salvadanaio previdenziale, dove, cioè, quanto io ho messo da parte, quanto ho messo da parte, o l'azienda ha accantonato, chiaramente tutti coloro che hanno il sistema contributivo, quindi dalla riforma Dini in poi. Poi con la legge Monti anche quelli con il retributivo sono sottoposti a questo regime, ma soltanto per i contributi dal 2012 in poi. Comunque Istat il 27 ottobre insieme al Ministero del Lavoro inviano a INPS e a tutte le casse di previdenza una lettera in cui dicono il coefficiente quest'anno, il tasso quest'anno è negativo, 0,19. E a questo punto si scatena la bagarre, perché non puoi rivalutare qualcosa moltiplicandola per un tasso negativo, non si rivaluta, si svaluta, quindi la potremmo definire aberrazione matematica. E a questo punto l'INPS deve mandare adesso, tra stasera e domattina, una richiesta di pareri al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Economia, in cui chiederà cosa devo fare, perché la soluzione più pratica è quella di sterilizzare, cioè congelare l'applicazione di questo tasso, ma questo congelamento ha un costo, in quanto ci deve essere una copertura finanziaria, questo l'hanno detto i tecnici della Ragioneria di Stato. C'è un'altra soluzione, che è quella proposta da Sandro Gronchi sulle colonne del Sole, quella di allungare questo periodo del PIL. Perché... No, nel senso che se no tu devi far sapere ai contribuenti italiani che l'ammontare, noi abbiamo fatto un esempio, immaginiamo che tu che vai in pensione col contributivo abbia da parte, diciamo, perché te ne hai messi l'impresa per cui lavori, la società per cui lavori, 10.000 euro. Infatti. Che sono il frutto di quello che sto messo da parte come contributi più le rivalutazioni previste dalla legge Dini. Sì. Adesso questi 10.000 euro per cosa vengono moltiplicati? Per 0,99, e quindi tu invece di averne 10.000 te ne tolgono dei soldi. Perché questo? Perché come dicevi tu prima, questo tasso viene calcolato sulla serie storica degli ultimi 5 anni di PIL, che come ben sappiamo è negativo. E quindi questa cosa non era stata prevista dalla riforma Dini e adesso bisognerà prevederla, perché tu al limite puoi arrivare a zero, sì, infatti, ma non puoi portare un nominale sotto. Cioè adesso, diciamo così, avrebbe senso che siccome era fatta in realtà per tutelare anche le pensioni, nel senso, per essere molto chiari, moltiplicando quello accantonato per un coefficiente, certo. Tu, immaginando che male che andasse il PIL potesse fare zero per 5 anni, ma non così negativo, in realtà cercavi di agganciare le pensioni all'andamento dell'economia. Per cui se tu avessi avuto un PIL che in media di 5 anni faceva lo 0,5, moltiplicavi 10.000 euro per 0,5 e dicevi, vedi che la pensione ha una sua corrispondenza con l'andamento del PIL. Così come per il coefficiente dell'inflazione programmata, ma quello è già negativo. È già, infatti, in termini reali, come dicevi tu, è già negativa le pensioni. Adesso questo sancisce che anche nominalmente diventa negativa, che è veramente un assurdo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, attenzione, già le pensioni sono cresciute meno dell'inflazione in questi anni, per cui 10.000 euro non si sono adeguati all'inflazione. È già in negativo questo. Se però, oltre che dal punto di vista reale, perché è ovvio che 10.000 euro di 5 anni fa fossero un po' di più, anche se l'inflazione ormai è scomparsa, però fossero più di 10.000 euro di adesso, se anche a livello nominale, cioè il numero, diminuisce, beh, c'è un effetto secondo me non voluto e distorcente, perché visto che abbiamo appena ricordato che questo coefficiente serviva per agganciare le pensioni a come si muove l'economia di un paese, aveva un indice, aveva un senso per non lasciarle troppo indietro, non per dire guarda, noi stiamo accantonando i soldi per la tua pensione, o meglio l'azienda, l'impresa è obbligata a mettere da parte versare i contributi per la tua pensione, però sappi che potrebbero risultare meno se l'economia andasse male, perché voglio dire, nessuno poteva immaginare un elemento punitivo nel caso di una recessione economica sulle pensioni, quindi è qualcosa, lo dico per, non dico tranquillizzare, ma per mettere i puntini sulle i, a cui il governo dovrà mettere mano, perché ripeto, non era previsto dalla riforma Dini che le pensioni potessero calare nominalmente, è ovvio, perché sennò nessuno l'avrebbe mai fatta passare una riforma del genere, era solo previsto che si agganciassero. Come se ne esce? Immaginando che alla peggio possa essere zero il coefficiente, sì, cioè sì, non si rivaluta, per cui 10.000 restano 10.000? Sì, assolutamente, questa è la soluzione, diciamo, che già avverrà nel momento in cui l'INPS chiederà il parere ai due ministeri, entrerà in stand by questa applicazione, quindi possiamo parlare di congelamento immediato. Dopodiché, per arrivare alla sterilizzazione, bisognerà che ci sia la copertura finanziaria. In alternativa viene proposto, e stanno lavorando, ci risulta, i tecnici su questo, l'allungamento di questa serie storica. Invece di calcolare gli ultimi 5 anni di PIL, si calcoleranno gli ultimi 10 anni di PIL, e abbiamo già calcolato che questa valutazione, questo calcolo porterebbe una valutazione di 1,51% e non più meno 0,19%. Sì, ok. Tu dici, si può intanto allungare il periodo, sì, perché se tu becchi un periodo troppo breve, ti becchi 4 anni, 3 anni, in questo caso 5 di anni di PIL negativo. Di PIL quasi sempre negativo, ma la media poi è negativa. È ovvio che se allunghi il periodo e vai a 10 anni, dovrebbe essere, speriamo, perché poi qua dovrebbe essere più difficile avere una variazione così negativa. Oppure uno potrebbe dire, comunque vada, se anche l'economia dovesse essere stagnante, e io mi auguro ovviamente di no, ma nei prossimi anni fare meno 0,2 più 0,2 meno 0,3 invece che rischiare un coefficiente negativo, potresti dire, male che vada, non c'è coefficiente, cioè è zero, quindi i 10.000 restano 10.000. Se anche nel corso dei 10 anni tu scopri che l'economia ha fatto meno 0,1, non mi moltiplicare per un coefficiente negativo. Certo, anche perché sono i soldi, soldi vivi, soldi veri degli italiani che mettono i contributi. Sì, cioè sono soldi che tu non hai preso in busta paga, parliamoci chiaramente, no? E che dalla busta paga ti sono stati, o meglio, sì, non è esattamente così, non è come il TFR, però diciamo, all'interno del tuo costo aziendale, quando certo, vai a contrattare o ti dicono quanto costi, c'è l'elemento contributivo sempre certo, per un'azienda, per cui sono soldi già erogati, non soldi ipotetici. No. E su questo si potrebbe pensare a una soluzione di questo. Che tempi sono previsti? Tu hai già chiarivi che adesso tutto verrà congelato. Allora, lo stand-by sicuramente ci sarà nel momento in cui arriverà questa lettera tra stasera e domattina da parte dell'INPS, quindi si va in effetto congelamento, ma è un congelamento, se poi passami il termine, provvisorio, nel senso che si dovrà decidere a livello politico appunto cosa si dovrà fare, quindi potrebbe addirittura arrivare un provvedimento nella legge di stabilità. C'è già un emendamento da parte del presidente della commissione ente gestori di Gioia, mm-hmm, che lo ha presentato. Domani ci sarà l'ammissibilità o meno di questo emendamento, che potrebbe già risolvere il problema, ma dovrebbero il Ministero del Lavoro e dell'Economia esprimersi a breve. Allora, mi chiede un ascoltatore, ma su che base calcolano 10 anni più 1,6 hanno una sfera di cristallo? No, non è chiaramente la previsione sugli anni, ma sono gli anni passati, cioè adesso cosa capitava? Che andando a vedere gli ultimi 5 anni, perché scattava con quest'anno l'elemento che fa media, ci si è accorti che se uno guarda gli ultimi 5 anni il coefficiente è negativo, o meglio il PIL è calato invece che crescere, e quindi fatto 100, come abbiamo spiegato prima, il PIL iniziale adesso è a 998, e quindi tu moltiplichi per 0,998. Assolutamente, sotto l'unità in sostanza. È sotto l'unità, insomma, se questo si studia anche a scuola, però o moltiplichi per 1, se inizi a moltiplicare per 0,5, per 0,9, a quel punto un danno ce l'avrai, infatti si moltiplica per 0,998. Teniamoci aggiornati, non perdiamoci di vista, nel senso che la cosa riguarda milioni di persone, ma anche e soprattutto milioni di lavoratori. E anche le casse di previdenza. E anche le casse di previdenza che gestiscono questi soldi. Fatto bene a ricordarlo, perché si vedono svalutare il patrimonio in questo modo. Se venisse applicato, e vedremo come si uscirà da questo congelamento, con quale soluzione. Grazie intanto e complimenti di nuovo ai colleghi del Sole 24 Ore, Vitaliano D'Angelio. Adesso andiamo, dopo il traffico, andiamo alla borsa, più 0,85% la chiusura, più 0,60 Francoforte, più 0,80 Parigi e più 0,60 Londra. Però voglio arrivare anche a Genova, magari facciamo un po' zittare la borsa, perché ripeto, con oggi è iniziato il viaggio di Radio 24, programmi e GR a un mese dall'alluvione di Genova. Ci risentiamo dopo il traffico. Focus Economia. Parliamo di Genova, devo dare solo una risposta brevissima a un ascoltatore che dice: mi scusi, ma quali sono le colpe del sindaco Ignazio Marino per la linea C della metropolitana? No, non ho mai detto, ho detto che non è un bel periodo, perché si è bloccata nel viaggio inaugurale la metropolitana con il sindaco dentro. Ho detto, non è un bel periodo per Ignazio Marino, nessuno dà le colpe a Marino, doveva essere pronta per il giubileo del 2000, ma di tutti i sindaci che si sono alternati a Roma sicuramente Marino è quello che ha le minori responsabilità. Ho solo detto che non è un bel periodo per lui, visto quello che gli sta capitando. Genova, allora, fermo restando che, come i nostri GR24 purtroppo vi stanno raccontando anche oggi, resta un'allerta altissima per la situazione del maltempo in Toscana, sta peggiorando l'evacuazione, c'è chiesta chiaramente il piano di evacuazione di tutti i locali a pieno terra nella zona di Marina di Carrara e anche Carrara. Ci sono altre notizie che riguardano Fucecchio vicino a Firenze, un fulmine ha colpito un centro per ragazzi autistici, fermano tre sanitari, allagati seminterrati della facoltà di ingegneria a Pisa. C'è una grossa apprensione per quello che riguarda la zona di Massa, di Carrara e Massa, per l'ondata di piena del fiume Carrione, però l'allerta resta anche in Liguria. Allora, prima di iniziare a fare, non dico una verifica, ma almeno il calcolo di quello che sto fatto dei danni, con Giuseppe Zampini, presidente di Confindustria Genova, nonché tra l'altro amministratore legato di Ansaldo Energia. Buonasera, presidente. Buonasera. Mi dica intanto com'è la situazione adesso, gli ho chiesto in tempo reale a Genova e poi vediamo di... Io ho lasciato Genova sotto una cozzone e quindi io penso che sia, le mie notizie stanno da piovendo ancora. Tra l'altro... un pezzo di riposo dalla pioggia durante la giornata e è ripreso verso le 16:30. Tra l'altro è stata prolungata l'allerta 2 su tutta la Liguria e infatti... fino alle 24 domani sera. Esatto, fino alle 24 domani sera e saltata anche l'assunto del Consiglio Comunale di Genova. Allora, noi non immaginavamo a un mese di distanza di dover ancora occuparci dell'emergenza, dell'attualità, però come abbiamo fatto anche in altri casi, non molliamo il colpo, l'avevamo già annunciato, l'abbiamo fatto per Vicenza, l'abbiamo fatto per il terremoto in Emilia Romagna, lo facciamo anche per Genova. Sono almeno 200 milioni di euro i danni calcolati inizialmente, 100 milioni a carico anche di imprese e commercianti. Voi avete una cenita un po' più completa o è ancora tutto, diciamo, work in progress, è ancora tutto in divenire per quello che riguarda... È ancora in divenire, tenga conto che molti esercizi oggi in funzione dell'allerta hanno chiuso anticipatamente, certo, perché oltre ai danni fisici subiti vanno considerati danni di mancata produzione e anche questi saranno da sommare alla fine del periodo. Sì, perché noi stiamo parlando dei danni veri e propri, cioè quelli a carico di imprese, commercianti, privati. Poi ci sono tutti i danni che non sono il danno alle, diciamo, alla struttura, ma è il danno che ti deriva dal fatto che tu non puoi lavorare, per cui se tu inizi a chiudere perché c'è l'allerta o perché quello è un danno ulteriore. Avete avuto qualche rassicurazione sui soldi? Le spiego perché ci sono erano fermi perlomeno per intoppi burocratici 35 milioni di euro stanziati a fine del 2011 dopo le alluvioni e quelli famosi che sarebbero dovuti servire per le opere messe in sicurezza. Si è mosso qualcosa di... Non ancora in maniera evidente, poi c'è successo alcuni altri piccoli problemi che si aggiungono a questo problema del passato. Ma i suoi associati, piccoli, medi e grandi, che cosa chiedono a questo punto? Quello che chiediamo da sempre, cioè chiederemo la certezza del diritto, o meglio in questo caso la certezza delle azioni conseguenti a decisioni prese. L'ultimo evento è quello relativo alle sanzioni sui tributi non pagati il 16 di ottobre, forse non so se sia noto agli ascoltatori questo evento. Il 15 di ottobre la Presidente del Consiglio in un comunicato stampa avrebbe dichiarato che nelle zone interessate alla metà alluvionate il versamento dei tributi si poteva spostare, quindi molti sostituti imposta, cioè molti soggetti che dovevano pagare i tributi, l'IRPEF, non hanno pagato. Il 20 di ottobre il Ministero delle Finanze conferma invece il pagamento. Il 4 di novembre, se ricordo bene, la Direzione Generale delle Agenzie delle Entrate non solo dice di essere pagato, ma di essere pagato una sanzione per regolarizzare la posizione. Ora, noi come associazione confidenziale più l'associazione ASCOM, Camera di Commercio, Commercianti, eccetera, riteniamo che questa sia un'ulteriore battaglia nella sanzione di tutti impropri in un momento in cui, per i danni che cui facevano riferimento prima, la gente fa fatica a alzare la testa, ritenendo la gente, tutti coloro che lavorano, degli esercizi commerciali e le imprese industriali. Quindi stiamo aspettando, stiamo facendo forte pressione che assieme ai fondi a cui lei faceva riferimento anche queste piccole, ma non piccole, situazioni di salvo vengano risolte. E su questo non è certo colpa degli imprenditori o di chi ha pagato, ma è colpa di, o meglio, era una si confidava in una dichiarazione che sembrava tempestiva da parte del Presidente del Consiglio per prendere atto di una situazione di calamità. E questo non è venuto, fra l'altro non è stato ancora dichiarato lo stato di calamità, questo è un ulteriore riconoscimento della calamità, non è ancora stato ottenuto, quindi questo è un ulteriore ritardo su tutti i processi di agevolazione che istituzioni di questo tipo possono portare. Allora, fermo restando che avete ragione da vendere, nel senso che se esce un'agenzia di stampa che dice probabilmente vi sarà una sospensione dei pagamenti e delle scadenze. Questo viene fatto e poi prima non viene confermata la sospensione, poi addirittura l'Agenzia delle Entrate conferma che sarete che chi ha sospeso verrà anche sanzionato per ritardo nel pagamento delle imposte dovute. È chiaro che questa è una beffa, che in altri casi... Faccio una domanda, diciamo, da avvocato del governo, ma è come si, visto la montata dell'alluvione, non è che si rischi di, perché dare ovviamente una possibilità a chi è stato danneggiato, ma fare un favore così gratuito, non dovuto, a chi dei danni ne ha avuti praticamente nulla? Assolutamente il rischio esiste, ma in questo caso penso si debba prevalere l'aiuto a chi ha veramente subito danni. Poi se qualcuno commette, diciamo, atti impuri o atti non legali, verrà sanzionato a sua volta, però prima, nell'attesa di fare verifiche di questo tipo, penso bisogna dare una mano e soccorrere proprio in termini finanziari tutti coloro che hanno subito danni. Quindi evitiamo, per dire, di non colpire l'evasore, per colpire l'evasore di colpire anche chi colpa non ha. E servirebbe una certificazione a quel punto dei danni subiti? Una certificazione, anche Confindustria stessa ha raccolto una serie di fondi per mettere a disposizione in maniera semplice una certificazione, sono dei format molto più semplici altre volte, e poi verranno fatte le perizie dagli organi preposti, sia dal Comune alla Regione. Esatto, per cui allora, fermo restano che poi se c'è qualcuno che fa il furbo deve essere sanzionato, però voglio dire, uno presenta Confindustria appunto al modulo, come abbiamo purtroppo dovuto già raccontare in altri casi in questo paese, c'è un modulo, certifica che lui ha ricevuto dei danni per questo ammontare, poi verranno fatte le verifiche, ma non si può bloccare tutto perché si pensa che qualcuno possa fare il furbo, e soprattutto con quello che è successo mi sembra che lo stesso governo deve fare chiarezza con l'Agenzia delle Entrate, perché dare la sanzione a uno che non ha pagato perché aveva capito dalle agenzie, come dichiarato, l'abbiamo visto anche noi, che vi sarebbe stata una sospensione dei pagamenti, beh, insomma, vediamo di capirci, perché sennò obiettivamente sembra che l'Agenzia delle Entrate vive in un altro mondo rispetto a quello che gli è successo. Io mi auguro che questo sia tutto, caro Presidente degli Industriali Genovesi Zampini, cioè che non si debba fare un altro collegamento per altri danni, me lo auguro di cuore, e quindi in bocca al lupo a tutti i genovesi e nel caso specifico a tutti i commercianti, artigiani, imprenditori che hanno avuto danni e chiaramente che non ne abbiano ancora, e vediamo poi di capire quando si chiarirà. Voi avete un'idea dei tempi su quando il governo vi potrà rispondere sulla parte dei pagamenti? Noi stiamo insistendo molto, è qualche rumore allo stato attuale in una positività di risposta, non abbiamo avuto ancora risposta, certezza di risposta. Noi insisteremo assolutamente meno su quella che riteniamo sia una questione per rendere almeno un fisco più amico che non nemico. No, almeno non nemico, diciamo, non dico amico, ma almeno non nemico, ecco. Infatti ho detto più amico, ringrazio per gli auguri, spero proprio che non se ne sappia bisogno, certo che poi se ci sarà caso ci risentiremo. Molto volentieri, spero, ripeto, che non ce ne sia bisogno. Adesso c'è il GR24, grazie al presidente di Confindustria Genova Giuseppe Zampini. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Poi parliamo della Russia, del rublo, del crollo, del blocco della liquidità sul rublo e anche di questo Consiglio dei Ministri che intervalla scenari politici con scenari economici. Focus Economia. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa, c'è qualcuno che polemizza anche sulla borsa, gli indici li abbiamo già dati e adesso arriviamo anche alla borsa. Allora, più 0,85% Milano, più 0,80% Parigi, più 0,60% Francoforte, più 0,70% Londra. Una giornata in cui le borse sono migliorate, anche erano leggermente positive anche nel finale. tutti i rialzi, come avete sentito, vicini al punto percentuale. Questo sfruttando un po' Wall Street e anche lo Standard & Poor's, che adesso guadagna lo 0,21%. Per quello che riguarda la giornata, era iniziata più moscia, mettiamola così, perché c'era una debolezza ancora una volta dei bancari e ancora una volta per Cattolica. Lì la vicenda, alcuni mi chiedono spiegazioni, l'abbiamo spiegata già venerdì scorso. Cattolica ha annunciato un aumento di capitale, oggi è il primo giorno di aumento di capitale, in cui c'era di fatto una penalizzazione per attraverso il valore del nuovo aumento di capitale per i possessori di azioni. Il titolo si sta muovendo su questo livello, meno 12,92 anche oggi, a 5,29 euro. I diritti hanno ceduto il 49% a 1,95 euro. Il resto del settore ha limitato le perdite proprio sul finale e grazie ad alcuni titoli bancari. Mi riferisco nel caso specifico a sul fronte Intesa San Paolo più 1,50% e Unicredit più 1,73%. Questo ha servito a limitare le perdite sul settore bancario. Devo dire che male sono andati, si sono confermati pesantemente negativi Banca Popolare meno 3%, da un lato, la BPE, la Popolare Emilia Romagna meno 1,60%, la Pop Milano meno 1,80% e UbiBanca meno 1,60%. Bene, di nuovo UX più 4,34%, Media 7 più 4,13%, Ferragamo più 3,80%, Enel più 2,40%. Per quello che riguarda altri titoli, Buzzunice in più 2,30, A2A più 2,12, di Unicredit abbiamo già detto, bene lusso anche con Luxottica più 1,60%, poi c'è Atlantica che guadagna l'1,30 come Fiat Chrysler, l'1,20 è il guadagno di Snam e di Terna, l'1,1 anche quello di Eni Green Power, Enel Green Power, scusate, ed Eni più 1%. La parte che riguarda i mercati, tra l'altro per quello che riguarda Enel vale la pena ricordare che secondo l'amministratore delegato Francesco Starace il collocamento di Endesa è cominciato molto bene, la quota di Endesa è pari al 17%, potrebbe salire fino al 22%, dice appunto Starace, è cominciato bene, siamo molto contenti. Per quello che riguarda i migliori e peggiori in assoluto invece, oltre a Cattolica, Boero Bartolomeo meno 8,70, Sintesi meno 8,70 come Sacom, fronte opposto la Doria più 5,60, titoli molto sottili CT Biofarma più 4,88, poi c'è Italcementi più 4,5% e Stefanel tra quelli non citati più 4,20. Dicevo, a livello di mercato però oggi la notizia che fa ancora più discutere è quello che sta capitando in Russia. Perché? Perché al di là delle dichiarazioni di Putin che si è solo salutato con Barack Obama a margine del vertice APEC in corso a Pechino, ma ha detto che bisognerebbe utilizzare più rubli e più yuan negli scambi in modo da ridurre il peso del dollaro, il problema che ha la Russia si chiama da un lato svalutazione continua del rublo, che ha toccato e continua a aggiornare minimi storici sia nei confronti del dollaro che nei confronti dell'euro, ma anche il fatto che la Banca Centrale Russa oggi ha dichiarato che ha tagliato tutte le previsioni di crescita sul 2015 portandole a zero viste le sanzioni internazionali attese almeno fino al 2015, e soprattutto poi la Banca Centrale Russa ha annunciato che limiterà temporaneamente la liquidità del rublo per frenare la domanda di valuta estera, nel giorno in cui ha fatto sapere che l'uscita di capitali dalla Russia dovrebbe raddoppiare per l'anno in corso, per il 2014, rispetto a quanto avvenuto nel 2013. Dovrebbero uscire dalla Russia 128 miliardi di dollari complessivamente quest'anno contro gli appena 60 miliardi di capitali usciti dalla Russia l'anno scorso. Dottoressa Claudia Segre, segretaria generale dell'Assium Forex ed esperta di paesi emergenti, tra cui anche la Russia, ampiamente emerso. Buonasera. Buonasera. Dunque, a causare la flessione del rublo è la situazione dell'economia russa che a sua volta è colpita dalle sanzioni e dalla discesa dei prezzi del petrolio. Tra l'altro, appunto, quest'anno PIL piatto e anche per l'anno prossimo PIL piatto. Avrà un effetto, in primo luogo, secondo lei, quanto annunciato oggi dalla Banca Centrale Russa, vista però la notizia che sono raddoppiate le uscite di capitale dalla Russia? Ma allora, diciamo che la notizia da parte della Banca Centrale Russa serve a stroncare ogni tentativo di speculazione sulla divisa, togliendo quella fascia di oscillazione nella quale la Banca Centrale si impegna a intervenire, quindi evita la possibilità di andare a forzare certi livelli di intervento e quindi di portare alla piena liberalizzazione della divisa, che come sempre ha salvato tante divise emergenti dagli attacchi speculativi. Di fatto però, come lei citava, oltre ai fattori interni, evidentemente la questione ucraina sta pesando molto sulla divisa e sulle fuoriuscite di capitale dal paese. Ecco, pesano più le sanzioni americane, europee per la vicenda ucraina o il prezzo del petrolio? Perché non vorrei sottovalutare il fatto che un prezzo del petrolio basso, visto che poi la Russia esporta petrolio ma esporta anche e soprattutto gas, il prezzo del gas è legato a doppio mandato, diciamo, con il prezzo del petrolio. Quello è un altro elemento che contribuisce alla debolezza del PIL americano, del PIL russo. Sì, certo, petrolio, gas, armi e materie preziose sappiamo che sono le maggiori esportazioni da parte della Russia. Il gioco che si è, come Gorbaciov giustamente ha detto, questa nuova fase di guerra fredda fa sì che gli americani abbiano convinto gli europei a stringere le sanzioni, quando invece gli europei stanno cercando di fare un passo indietro, e questo sono un grosso problema per i russi, che sono costretti a passare via Svizzera o via altri paesi, ma soprattutto si stanno gettando nelle mani dei cinesi, e insieme ai cinesi vogliono diminuire il potere del dollaro americano. Quindi è tutta una situazione che si lega in un momento in cui la Russia è definitivamente ai ferri corti con l'America, ma Obama avrà sempre meno potere. Ma veramente, la domanda non è speciosa né retorica, ma veramente le sanzioni che abbiamo messo in campo, anche perché poi ci sono le controsanzioni russe, ma mi riferisco solo alle sanzioni europee e americane, hanno un effetto, diciamo così, pesante sul PIL, o è più la paura di sanzioni ulteriori a far fuggire i capitali? Allora, il problema è che i capitali fuoriescono perché non hanno più quell'abbrivio dato dalla rivalutazione della divisa, che faceva sì che i buoni rendimenti si unissero ovviamente a un ritorno dal punto di vista valutario, quindi scappano gli investimenti verso la Russia. Il problema è che, le devo dire la sincera verità, sono gli imprenditori italiani e soprattutto gli imprenditori tedeschi che in questo momento sono pesantemente colpiti dalle sanzioni, molto di più di quanto non lo sia lo Stato sovietico. Allora, per essere precisi, è chiaro che le sanzioni dietro le sanzioni c'è un principio politico, umanitario, di rispetto delle regole, per cui non sto dicendo che tutto sia economia, però è importante notare che in questo momento più che gli imprenditori russi colpiti dalle nostre sanzioni sono gli imprenditori, e l'abbiamo ricordato molte volte, italiani e tedeschi in primo luogo, cioè i due paesi che erano più esposti come export verso la Russia, ad essere colpiti, il che non vuol dire che non si possano fare sanzioni anche se colpiscono i nostri imprenditori. Sto solo dicendo che da un punto di vista economico il danno più grosso lo subiamo noi e non i russi. Chiaro quello che lei ha detto sulla fuga di capitali, invece, perché dal punto di vista della fuga di capitali il motivo è che il rublo ai minimi non garantisce nulla a chi tiene, diciamo, tutto il conto corrente, il deposito in rubli. Grazie anche alla dottoressa Claudia Segre. Ci sono le informazioni sul traffico, poi l'ultima parte di Focus Economia invece è tutta italiana, e quindi Consiglio dei Ministri che dovrebbe essere iniziato, anche se non vedo agenzie su questo, e tra coperture della legge di stabilità da un lato e sullo sfondo anche una instabilità di carattere politico. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Allora, vediamo di tenere assieme un insieme di cose. Da un lato, oggi sono usciti i dati dell'Istat sulla produzione industriale. A settembre meno 2,9% rispetto all'anno prima, e in calo anche su base mensile. Il trend è negativo, come ha sottolineato anche il presidente di Confindustria Squinzi, ma ha ricordato che Secondo le attese di Confindustria e del Centro Studi, a ottobre dovrebbe essere in miglioramento il dato sulla produzione industriale. Per quello che riguarda invece il dato di settembre, quello certo, purtroppo il dato è negativo in tutti i comparti: energia -1,5, beni di consumo -3,2, beni strumentali -2,4, beni intermedi -0,8%. La stima di Confindustria è che a ottobre vi sarà un +0,4%. E questa è la congiuntura che stiamo ancora attraversando. Poi ci sono dichiarazioni, per esempio, sempre di Squinzi sulla legge di stabilità. Le proposte iniziali contenute nel decreto sblocca Italia, ha detto il presidente Confindustria, non hanno trovato le coperture nella legge di stabilità e stiamo manifestando al governo le preoccupazioni per una scelta che non comprendiamo. Continua Squinzi, l'instabilità che ha caratterizzato la politica italiana nell'ultimo decennio non ha sicuramente favorito un piano di rilancio dell'economia. Ora siamo in una fase nuova che meglio dovrebbe rispondere alle necessità del paese. E poi il giudizio su Napolitano, fattore di grande stabilizzazione. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora Guido, scusami, come si tiene assieme un dato molto economico come quello della produzione industriale e anche le previsioni su ottobre, un altro di politica economica, il Consiglio dei Ministri di oggi, e uno invece più di politica, come dicono i francesi, e cioè da un lato la tenuta del patto del Nazareno tra Forza Italia e il PD, e poi questa ridda di voci su quando lascerà il Presidente della Repubblica Napolitano. Ma il dato sulla produzione industriale ci dice che la situazione è ancora per noi, per l'Italia, una situazione ancora grave, nonostante che poi per ottobre si preveda un piccolo miglioramento. Se uno dà un'occhiata ai grafici vede che oggi l'Italia sotto questo profilo è stata superata addirittura dalla Spagna e siamo ultimi, penultimi anzi, in Europa sul dato della produzione industriale dopo la Grecia, appena prima della Grecia. Quindi questa è la situazione, diciamo, che non è confortante. E il Consiglio dei Ministri, che è riunito oggi, si dovrebbe occupare di catasto e quindi dare riforma del catasto, che è una delle leggendarie riforme italiane di cui si parla da decenni. Dovrebbero entrare in pista i primi provvedimenti che erano già stati previsti peraltro dalla delega di riforma fiscale, e quindi si stanno mettendo a punto le commissioni censuarie, che saranno quelle che poi dovranno indicare le nuove cifre del catasto italiano. Quindi, trattandosi, diciamo, di immobili di casa, questo è, diciamo, un primo passaggio importante, e che ovviamente riguarda uno dei settori più caro agli italiani. E poi c'è questo discorso, diciamo, della Presidenza della Repubblica, che è iniziato questo toto quirinale che sarà il più lungo e feroce della storia italiana, e che ci porterà poi nel 2015 all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Quindi è una scadenza fondamentale, importante per la politica, però avviene in un periodo molto complicato per la situazione economica italiana, e quindi, diciamo, capiterà oltretutto nei primi mesi del 2015, che sono mesi ad altissima sensibilità, perché sappiamo che poi avremo un giudizio della Commissione europea, non sappiamo fino a che punto, diciamo, reggerà la tregua sui mercati, e quindi, diciamo, ci avviciniamo, diciamo, a un periodo molto molto intenso complessivamente. Ecco, da questo punto di vista uno può dire vabbè, riguarda tra virgolette la politica e non questo programma. In realtà sappiamo che se poi si bloccano le riforme, quelle che sono iniziate e non ancora completate, il giudizio poi sul paese dal punto di vista economico è automatico. Perché lo dico? Perché vedremo come andrà a finire la richiesta di forte chiarimento arrivata dal premier Matteo Renzi a Forza Italia sul cosiddetto patto del Nazareno. Però tu ti immagini che vi possa essere un periodo lunghissimo di tatticismi? Cioè, quello che è successo alla Corte Costituzionale e al CSM non è che mi lasci proprio tranquillo sul un accordo per il Presidente della Repubblica, e questo potrebbe avere un impatto sul percorso di riforma, o sono due binari completamente diversi? No, non sono binari completamente diversi. Dicevo prima, Toto Quirinale è il più lungo della storia, e questo già è un fattore, diciamo, di instabilità di per sé. Poi c'è, diciamo, la scommessa politica di Renzi sulle riforme legata all'accordo sul Nazareno, che è stato messo, tra l'altro, che è finito come consueto nella storia italiana in un tribunale, perché con un'iniziativa dei Movimento 5 Stelle di Grillo è stato aperto un fascicolo dai magistrati sul patto del Nazareno, e in questo momento Renzi sta cercando da un lato di spingere Berlusconi a stringere definitivamente, diciamo, l'accordo sulla riforma della legge elettorale, e dall'altro lato tiene un filo di dialogo con il Movimento 5 Stelle. È una partita molto difficile, perché sappiamo che già sul terreno dell'accordo con Grillo è scivolato a suo tempo Bersani. Io credo che l'accordo del Nazareno terrà, perché Berlusconi non ha interesse, diciamo, a fare una rottura su questo terreno, se non altro anche perché glielo hanno suggerito ancora una volta i figli e il presidente della Fininvest Confalonieri, che insomma di Mediaset, ritengono che sia necessaria, diciamo, una continuità politica su questo terreno. Quindi io credo che il patto reggerà, però questo comunque avviene in un quadro di grandissima instabilità, perché ci sono, diciamo, le elezioni che riguardano la Presidenza della Repubblica, e questo è un terreno molto complicato, perché se sarà questo Parlamento a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, non dobbiamo dimenticare che questo Parlamento, diciamo, spende su questo Parlamento il giudizio della Corte Costituzionale di illegittimità. Quindi dovremo avere un Presidente della Repubblica eletto con il massimo del consenso possibile, ma è difficile immaginare un accordo che va dal PD, da Renzi ai grillini, a Forza Italia di Berlusconi, e quindi, diciamo, si apre, per questo dicevo che si apre un periodo molto molto difficile. Dimmi una cosa in una battuta, perché stiamo chiudendo, ma è il rischio elezioni anticipate se non ci fosse l'accordo? Se non c'è l'accordo, direi che sicuramente le elezioni anticipate sono alle viste. Staremo a vedere anche come andrà stasera, appunto, il Consiglio dei Ministri e poi la riunione del capigruppo del PD. Grazie intanto a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Barigioni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.